Inseparabili, il fuoco amico dei ricordi. Questo è il titolo del romanzo di Alessandro Piperno che ha conquistato il premio Strega. È la seconda parte di un dittico iniziato con Persecuzione. L'autore Mondadori, diventato famoso nel 2005 con il suo esordio Con le peggiori intenzioni, che si aggiudicò il Campiello per Aprima, torna ad indagare le complesse dinamiche familiari. Nella prima parte del dittico, Piperno raccontava la storia di Leo Pontecorvo, accusato di molestie sessuali, e la fidanzatina del figlio. Con Inseparabili, l'attenzione viene puntata sui due fratelli, Filippo e Samuel, da piccoli visceralmente uniti, da grandi soffriranno l'uno il successo dell'altro, così li descrive l'autore. Ad entrambi ho affidato, diciamo, delle cose che mi riguardano. Il successo casuale di Filippo e la gestione dissennata del medesimo, i fallimenti sentimentali e professionali di Samuel e la sua attitudine all'autoflagellazione. Piperno è abile nel caratterizzare i personaggi, sa indagare nei pensieri più intimi dei suoi protagonisti e fa emergere le difficoltà del vivere, ad iniziare dalle relazioni sentimentali e sessuali, vissute dai suoi personaggi sempre con grande problematicità. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.